attimo di debolezza, Donato, può capitare un attimo di debolezza. Un attimo, sono state 3 ore di crante lì, da può piacere loro, non fa questo, sai che mi piace. Condaccio! Guarda, smettila perché mi metto a urlare, Lo sai che sono schiavo dei sensi, bella fresca, viene, ma chiappo morto. Ehi, ma che mi vuoi ammazzare? Ma che vuoi ammazzare? Non vedi che sei già morto, zompi? Stammi lontano perché te lo tiro in testa, Che vuoi fare? La violenza che faccio passare in ambulante? Che è un pappagallo, un patto bello. Ma non l'hai beccato in pieno! Dori! Tana! Uva, non fa colpo di testa! Tana! Maron, che botta! Walk. FM. Litigi, bizze, risse tra Dave Mustaine, ora mente geniale dei Megadeth, e l'allora sua formazione, i Metallica. Vi chiedevamo quale delle tre risse era vera e quale delle tre era completamente inventata. Forse la A era vera, ovvero che Mustaine si recò a casa del batterista Urlich scoprendo di non essere stato messo come autore della canzone Master of Puppet e gli spaccò il naso con una bottiglia. E forse questa è la risposta esatta? No, glielo chiedo io. E forse questa è la risposta esatta? Me lo dica! E forse me lo dica. Questa è la risposta esatta? Allora, dica sì o no. Allora, la busta sì o la busta no? Scelgo la busta no! No, ipotesi sbagliata. E allora forse era esatta quella che ipotizzava l'arrivo di Mustaine a casa di Ron McGovney, primo bassista dei Metallica. Il buon Mustaine, sciogliendo i suoi cani, fece sì che uno dei succitati cani fece la cacca sulla macchina di Ron Hetfield. Insomma, si lamentò di questa cosa e il tutto finì a pugni e cazzotti. È l'ipotesi esatta oppure no? Ahimè, dispiace ammetterlo, ma rissa da bar, sì, tra gentiluomini, sì, ma risposta esatta. Esatta! Soluzione autentica, ahimè. Esatta. Ahimè, soluzione autentica. Una scazzottata autentica per escrementi di cane, complimenti, molto heavy metal. Molto scivolata in basso. Quindi, lasciatemelo dire. Non accadde mai che Mustaine portò una bottiglia contenente urina al posto di birra a Hetfield. Segnaliamo. Sei credibilissimo, molto credibile. È molto secondo credibile. Me i Ramones ne sanno qualcosa, ma affronteremo la cosa in un'altra puntata. Segnaliamo che il fatto che Mustaine si arrabbiò per non essere iscritto come autore di Master of Puppet è una notizia vera, nel senso che Mustaine sostiene di averla in parte composta lui. Ricordiamo che ultimamente, proprio nel 2004, Mustaine si arrabbiò tantissimo per le riprese che lo vedevano protagonista all'interno di un DVD dei Metallica senza la sua autorizzazione. E segnaliamo come apice dei litigi tra i Metallica e Dave Mustaine quello che accadde nell'aprile dell'83. I Metallica si recavano a New York per incontrare il loro produttore e Mustaine era alla guida del furgone. A causa del suo stato di ubriachezza il mezzo sbandò e finì in un fossato. Non sopportando più i suoi comportamenti, Hetfield e Urlich decisero di allontanarlo e lo portarono alla fermata dell'autobus per farlo tornare a Los Angeles. E lì Mustaine non suonò più con i Metallica. Chissà se gli dettero il biglietto del pullman. Chissà se no. Aveva dei in tasca qualche spicciolo, chissà, per tornare. Chissà, poverino. Chissà se i controllori americani sono severissimi. Lo scopriremo qui su Rock FM. Restate in contatto. Per Bacco. You take a mortal man. Put him in control. Watch him become a god. Watch people's heads roll. The destruction. Megadeth. Ta ta ta ta ta ta ta. Il cattivo Mustaine, eccolo qua. Symphony of Destruction. 8 e 39 minuti primi. Devo chiedere scusa a Lorenzo da Imola che ci scrive via SMS. Sto servendo una signora con questo pezzo, a momenti gli tiro una testata. Chiedo scusa anche alla signora, poverina. Ultima mezz'ora di pane, burro e rock and roll, ne sentirete delle belle. Restate con noi, tra pochissimo il provino per diventare musicista rock con la bocca e tanto altro. Ah, Sir Paul McCartney con Dance Tonight. Everybody gonna dance tonight. Everybody gonna feel alright. Everybody gonna dance around tonight. Everybody gonna dance around. Everybody gonna hit the ground. Everybody gonna dance around tonight. Well, you can come on to my place if you want to. You can do anything you wanna do. Everybody gonna dance tonight. Everybody gonna feel alright. Everybody gonna dance around tonight. Tonight, everybody's gonna feel alright. Everybody's gonna dance around tonight. Yeah, everybody's gonna jump and shout. Everybody's gonna sing it out. Everybody's gonna dance around tonight. Well, you can come on to my place if you want to. You can do anything you wanna do. Sto notando. Cosa nota, maestro? Sto notando, sì? L'erezione pilifera. No. Ah, dei miei peli, delle braccia. L'erezione pilifera. È entusiasmo. Sa perché ce l'ho? Io immagino, io credo di intuirlo. Per il contatto con i nostri radioascoltatori. Sì. In tanti hanno risposto all'appello: trasformatevi in musicista di rock con la bocca e noi vi stiamo provinando. L'MLM, piano piano, passo dopo passo. Vi sentiremo tutti. Un momento importantissimo della trasmissione. Che abbiamo oggi in diretta? La redazione ci segnala Ivan da Milano, dovrebbe essere con noi. Pronto? Pronto? Pronto? Eccoti pronto qua. Ivan, grazie. Ci senti? Grazie. Noi ti sentiamo. Siamo noi che ringraziamo te per aver partecipato a Diventate musicisti con la bocca in pochissimo tempo. Come mai hai scelto di diventare un musicista rock con la bocca? Perché non ho tempo di, cioè ho la chitarra elettrica a casa impolverata, non ho tempo di imparare a suonarla e con la bocca mi trovo un po' meglio, diciamo. Questa te la sei inventata o ce l'hai veramente la chitarra? No, ce l'ho veramente. E non hai voglia di... È un bel esempio questo, perché sì. Perdere tempo a suonare una chitarra vera, sì, quando si può diventare musicisti rock con la bocca? Ma forse è troppo occupato, forse lavori troppo, è così? È così. Cazzo. Che lavoro fai, scusa, Ivan? Sono l'autotrasportatore. Ah. Esisto, purtroppo, come ho detto. Perché? Perché, scusa, ha i suoi lati piacevoli, si è sempre in giro, si vede il resto dell'Italia, insomma, e dell'Europa, e beh, si imparano delle cose viaggiando, e soprattutto non si è sedentari nell'ufficio, dai. Esatto, ci sono i suoi lati viaggiando. La chitarra vera, capito, te la sei mai portata in giro con te? La chitarra vera no, e attento, Ivan, la chitarra che ti porti nel cuore invece? Quella ce l'ho sempre. E allora sei già un musicista rock con la bocca. Una grande immagine. Ti abbiamo chiesto quanti anni hai? No. 26. Sì. Senti, ti sentiamo già bello tranquillo, eh? Tranquillissimo. Immaginiamo che tu vorrai suonare la chitarra. Quasi quasi. Tu dici già, mi ero impratichito con quella vera, perché non provarci? Esatto. Noi siamo pronti, Ivan. Se a te va bene. Allora ti annuncio. No, che pezzo vuoi fare? Sì, che pezzo è un pezzo scelto? Dei Lenny Skynyrd. Ok, un classico del Southern Rock. Esatto. Alla difficile, tra l'altro. Molto. Pezzo molto, difficile. Molto. Difficile a partire dal nome. Sì, Lynyrd Skynyrd. Il nome più difficile del mondo. In diretta sulle frequenze di Rock FM, Ivan Milano, 26 anni. Lui vuole diventare un musicista rock con la bocca e ci suona la sua chitarra in un pezzo dei Lynyrd Skynyrd. Prego, Ivan! Vado. Bravissimo! Devo chiedere scusa, ho rovinato forse io un po' l'esibizione perché sono entrato. Beh, non riuscivo, fatto non trasportare. D'accordo. Ivan, perdonami, e mi sono fatto trasportare e dovremmo inventarci qualcosa. Dovete tapparmi la bocca perché non riesco a non troppo entrare. Entusiasmo, troppo scusami, entusiasmo. Scusami, Ivan, scusami, spero di non aver rovinato, ma terremo conto. Terremo conto? Anche perché stavi andando benissimo, non benissimo, benerrimo, benerrimo. Ivan, allora come stiamo dicendo a tutti, le faremo sapere. Sì. Va bene. Ecco, Ivan, una domanda. Sì. Tu fai anche trasporti a domicilio, piccoli lavoretti? Faccio tutto, sono il factotum della città. Però è di Milano, Frick, non può venire a Bologna a farle. Vabbè, perché l'ho capito dove voleva andare a parlare. Ne parliamo, non si può mai dire. Trasporto Frick Antonio a domicilio? Potrebbe essere una roba così. Credo avesse in mente una cosa di questo tipo. Dovessimo organizzare una grandiosa band rock con la bocca, tu ci sarai? Ci sarò. E allora speriamo di sentirci presto. Purtroppo di chitarristi ne abbiamo tanti, però chi lo sa, magari sarai tu. Ho deciso tra la chitarra e il contrabbasso, ma col contrabbasso non riuscivo a esprimere bene la mia creatività. Ivan, ti capiamo e terremo conto scelta. Anche di questo, perché avresti potuto giocare col contrabbasso. Sono un chitarrista, ma volevo essere un contrabbassista. Va bene. A bocca. Magari ti riprovineremo come contrabbassista a bocca, bene, se perfetto. Vorrai. Ivan, a presto, ciao! Grandi, ciao, sei ciao. È stato ciao. Fantastico, non dimenticare. Carlo.

tra tra tra cu tra tra un rom. Ehi! Rock, rock, rock away beach. Rock, rock, rock away beach. Rock, rock, rock away beach. We can hit you right to rock away beach. Rockway Beach, Ramones, 8 e 59 minuti primi, è andata anche per quest'oggi, raga, vi abbiamo portato fino alle 9, è stata dura ma ce l'abbiamo fatta, buon weekend a tutti, pane, burro e rock and roll torna lunedì mattina, pane, burro e rock and roll, dalle 7 alle 9, sempre qui, la tua colazione rock. La vostra radio rock preferita, Rock FM. Rock and roll. L'unica. La prima, no? E te mi credi. Se cerchi una radio che fa roccheggiare, ecco l'hai trovata. No, non la cambiare. Pensa che fortuna l'averci incontrato. Ogni giorno alla mattina ascolta Rock FM. Diamo il buongiorno anche al nostro buon Marco Garavelli. Grazie di chiarire. Pronterrimo per una tre ore. Quanti minuti erano? 180 minuti al mattino, 60 di sera con Arden Davy. Oh, Garavelli, il lampione crepuscolare. È ancora acceso. È ancora acceso. E guarda fuori, secondo te. Così puoi fare il programma anche tu con il lampione crepuscolare. Hai visto? Non vedevo l'ora, sai. Hai capito? È, è la prima volta, secondo me. Mi sa proprio di sì. Guarda che è tutta un'altra cosa trasmettere col lampione, te Ma lo dico posso io. Accendere la luce all'interno dello studio? Se vuoi sì, però grazie. Non ti gusti il lampione. Ho beh, capito. È una scelta tua questa. Quindi è come essere sotto la luna in spiaggia, visto bravo, che c'era bravo. La bravo, Rockway bravo. Beach. Sì, perché noi di PBR trasmettiamo il buio. Tu sì. Di solito l'accendi la luce, mascherina, ti conosco. A sì, te. Sì, l'accendo. Va bene, ok. Buona giornata a tutti quanti e buon weekend. Buon weekend a te, ciao.